Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Eccoci, ecco allora le pagine veneziane della Caritas, che ha un calendario di appuntamenti molto fitto nel corso dell'anno, senza praticamente mai interruzioni. Anche l'estate, come vedremo tra poco, è ricca di iniziative e di appuntamenti. I prossimi in programma nel calendario, quindi da segnare, sono gli incontri di preghiera ancora nel corso della Quaresima. Lunedì prossimo, 4 marzo, un nuovo appuntamento con Gesù, così si chiama il ciclo di incontri, appuntamenti con Gesù, i testimoni della fede, nella chiesa del Santo Nome di Gesù in Fondamenta Santa Chiara a Venezia, alle 18:30 fino alle 19:45. Giovedì 7 l'incontro di preghiera per il vicariato di Eraclea è in programma nella chiesa di San Giovanni Bosco al numero 35 di Ponte Crepaldo, dalle 18:30 alle 19:30, e poi si va direttamente dentro la Settimana Santa, dove anche il mondo della Caritas è convocato per la Santa Messa in Cena Domini, la Messa del Giovedì Santo nella Basilica di San Marco. L'appuntamento è alle ore 18 e poi si andrà a dopo Pasqua. Appuntamenti con Gesù, i testimoni della fede, sono uno all'inizio di aprile e uno all'inizio di maggio. Lunedì 1 aprile alle 18:30, lunedì 6 maggio sempre alle 18:30, sempre in Fondamenta Santa Chiara a Venezia nella chiesa del Santo Nome di Gesù. Mentre il terzo convenire Caritas è in programma sabato 18 maggio alla vigilia praticamente della Pentecoste, nel pomeriggio dalle 16 alle 18:30 nella sede Caritas nel sestiere di Santa Croce a Venezia. L'estate, dicevo, l'estate è ricca di iniziative, esperienze di solidarietà per avvicinare i giovani al servizio, che vengono svolte con Capodanno, con il Carnevale e anche con la festa d'estate. Il mese sarà quello di giugno, dettagli poi ve li daremo nel periodo prossimo, ma con il mese di luglio ci sarà un campo di lavoro all'estero per l'educazione alla mondialità in Romania. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. È già dal 1998 che la Caritas veneziana è presente, infatti, in Romania, nella regione Ialomita, nella città di Slobozia. Questa esperienza nel tempo, ovviamente 15 anni di tempo, si è consolidata e strutturata. È stata attivata anche la Caritas locale, la Caritas parrocchiale, con la presenza di tre operatori. È stata costruita una chiesa prefabbricata, e c'è stato anche l'aiuto per la costruzione della Casa Sperante, il centro di aggregazione per i ragazzi e i giovani. Lavoro svolto in stretta collaborazione con i parroci, tre che si sono avvicendati in questi anni, e con le suore, punto di riferimento importante della congregazione delle suore Dorotee di Vicenza. Vengono assistite lì in Romania diverse famiglie in difficoltà. C'è anche una mensa per bambini e adulti due giorni alla settimana. Dal 2005 è stata anche attivata la proposta dell'accompagnamento a distanza, quindi le adozioni per i bambini che frequentano la mensa e che vengono accompagnati per la scuola, le situazioni di difficoltà delle famiglie. Nei mesi estivi di luglio e agosto viene proposta l'attività del GREST, e questo proprio grazie anche al supporto dei giovani del territorio veneziano, che di GREST magari hanno molti anni di esperienza alle spalle e possono, e l'hanno già esportato in Romania. Un'esperienza appunto che verrà ripetuta anche nel prossimo mese di luglio. Molti sono stati i gruppi parrocchiali coinvolti. Il tempo di presenza è di 10-15 giorni, un'esperienza coinvolgente che è l'animazione dei bambini attraverso giochi e laboratori, un'esperienza che per noi insomma è pluridecennale, quella del GREST e delle attività estive. In Romania non è così frequente, spesso rappresenta una novità importante per l'aggregazione, per l'animazione del territorio. Inoltre, grazie alla disponibilità delle già citate suore Dorotee, degli operatori della Caritas, Caritas degli stessi ragazzi, chi decide di vivere questa esperienza può rendersi conto di persona quali e quante sono le diverse realtà di sofferenza presenti nel territorio. I riferimenti per partecipare si trovano sul sito www.caritasveneziana.it, dove si possono chiedere informazioni appunto per questo appuntamento estivo. Sempre a proposito di estero, la Caritas Veneziana è presente anche in Kosovo, nella città di Peja. Il centro giovanile esiste fin dagli anni 40 e oggi è stato riorganizzato anche con un notevole supporto della Caritas Veneziana e anche della Caritas del Triveneto. Tra l'altro il direttore Monsignor Dino Pistolato è stato anche nominato cittadino onorario di Peja per l'importante supporto dato alla cittadinanza dalla Caritas di Venezia. E ricordiamo che poi sono molto nascosti i servizi, nascosti nel senso che ci sono, non vengono pubblicizzati ovviamente sui giornali, queste notizie non trovano molto spazio, noi cerchiamo di metterli in evidenza perché sono importanti, anche se i numeri magari non sono grandissimi, ma importanti per una città come quella di Venezia che vede la presenza sempre di più, come le città anche grandi sicuramente, le metropoli, ma anche ormai le città medio-piccole, di persone che scelgono di vivere per strada. Sono tante le iniziative, i servizi promossi e sostenuti dalla Caritas di Venezia. C'è un servizio di ristorazione serale, dormitorio per donne, distribuzione vestiario e servizio docce, chiamato Betania, e si trova nel sestiere di Cannaregio al numero 2601. In Santa Croce invece, sempre sestiere, c'è un dormitorio serale per maschi italiani di età medio-alta, servizio Betlemme, poi c'è la casa Beato Giovanni XXIII con l'accompagnamento e l'accoglienza di donne che provengono dal carcere. La casa Monsignor Vianello a Campalto accoglie e accompagna uomini provenienti dal carcere. La casa San Giuseppe a Latana, nel sestiere di Castello, offre ristorazione diurna, distribuzione vestiario e servizio docce. Poi c'è il centro di ascolto diocesano a Santa Croce, il centro Lucio Cerchier, promozione aggregazione giovanile, sempre a Campalto. Il servizio di microcredito, di cui parleremo con ulteriori dettagli magari in prossime puntate, l'opera Casa San Raffaele a Mira, prima accoglienza per stranieri maschi. Sono alcune realtà tra le tante promosse e attivate dalla Caritas Veneziana nella città, ma anche nel territorio in terraferma, per sostenere quanti sono più in difficoltà. E quindi vi invitiamo ad informarvi, se potete dare una mano concreta o anche perché no, finanziaria, per queste iniziative che aiutano chi è più in difficoltà e chi rischia di restare indietro rispetto alla società che corre così forte. www.caritasveneziana.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.